partirono in due ed erano abbastanza. Un pianoforte, una chitarra e molta fantasia. E fu a Bologna che scoppiò la prima bomba. Tra una festa e una piadina di periferie. E bomba arriveremo a Roma, malgrado voi. A Sasso Marconi incontrammo una ragazza che viveva sdraiata sull'orlo di una piazza. Noi le dissemmo: vieni, dolce sarà la strada. Lei sfogliò il fiore. Bomba o non bomba, noi arriveremo a Roma, malgrado voi. A Rocco Pilaccio ci venne incontro un vecchio, lo sguardo profondo e un fazzoletto al collo. Ci disse: ragazzi in campana qui non vi lasceranno andare. Hanno chiamato la polizia a cavallo. Ma bomba non bomba, noi arriveremo a Roma, malgrado voi. A Firenze dormimmo da un intellettuale, la faccia giusta e tutto quanto il resto. Disse: no compagni, amici, io disapprovo il passo. Manca l'analisi e poi non c'ho l'elmetto. Ma bomba non bomba, bomba noi bomba. Arriveremo a Roma, a Roma. Malgrado te, Orvieto poi ci fu l'apoteosi. Sindaco, la banda e le bandiere in mano. Ci dissero: l'autostrada è bloccata e non vi lasceranno passare. Ma sia ben chiaro che noi siamo tutti con voi. E bomba non bomba, bomba non bomba, arriverete a Roma, a Roma. Malgrado noi parlamentammo a lungo e poi ci fu un discorso. Il capitano disse: va bene, così sia. E la fanfara poi intonò le prime note. E ci trovammo proprio in faccia a Porta Pia. E bomba non bomba, arriveremo a Roma, a Roma. Malgrado voi, la gente ci amava e questo è l'importante. Regalammo cioccolata e sigarette vere. Bevemmo poi del vino rosso dalle mani unite. E finalmente ci fecero. Bomba su bomba, bomba su bomba, siamo arrivati a Roma, insieme a voi.